La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Dedico questa poesia a quella signora che mi ha rimproverato di avere detto l'amore per i coraggiosi, tutto il resto è coppia, come se non potessi intuire e immaginare quale grande amore ci può essere e duraturo tra due esseri. Per esempio, ho qui una poesia di Amy Lowell che si intitola Dopo una tempesta, che è epica nel suo entusiasmo quotidiano ed è una donna che è orgogliosa del suo uomo, eppure lo vede tutti i giorni, da anni, e racconta di come lui cammina sotto la neve e racconta le meraviglie del quotidiano e dove la natura appare soltanto come ornamento della bellezza di lui. Cammini sotto gli alberi di ghiaccio, oscillano e scricchiolano e si curvano splendidi per adornare il tuo cammino. Il sole bianco li accende di colori davanti a te. Sono azzurri e malva e smeraldo. Sono ambra, giada e onice. Sono argento lavorato a fiamma. Cammini sotto gli alberi di ghiaccio e la neve scricchiola sotto i tuoi passi. I miei cani ti saltano intorno. Cammini sotto gli alberi di ghiaccio, ma sei più abbagliante dei fiori di ghiaccio. E la trara dei cani per me non è forte come il tuo silenzio. Cammini sotto gli alberi di ghiaccio e sono le 10 del mattino. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, nella mia relazione durata 3 anni, lui è stato sempre pieno di gentilezza con me. È stata una vera passione. Io l'ho strappato ad un'altra, che alla fine telefonava e lui si faceva negare, presente io. Quest'uomo è un capo, ha un'azienda ed è circondato da dipendenti che ne hanno fatto un idolo. Se gli dici che c'è il Papa, non ci credono. Il Papa è lui e la sua azienda alimentare. Nel nostro piccolo centro, Scapolo, è l'uomo più corteggiato. Eppure, durante la nostra relazione, non c'è stata nessuna infedeltà, anzi, era geloso lui, perché io sono bella e giovane. Lui è un cinquantenne grasso. Poi qualcosa cambia. Meno assiduo, meno sesso. Chiedo se c'è un'altra, lui nega. E qui comincia il martirio. Mai mi ha detto vattene o sono stufo. Non si faceva trovare al telefono, non veniva agli appuntamenti, poi erano scuse a non finire, finché non si è nemmeno curato più di quelle e mi ha fatta umiliare dalla sua segretaria e dal factotum. Ho capito che lui si negava, ma era lì e ridevano fra loro, quel grassone. Come posso fare a vendicarmi? Sull'amore ormai ci sputo. Magda. Ma tu sull'amore ci hai sputato fin dall'inizio, se per questo. Quella che racconti è una guerra di favorite, non è una storia d'amore. Cominci col dire che lo hai strappato a un'altra, verbo che dice già la violenza dei modi e delle intenzioni, nell'impadronirti del più ricco del paese. Ma quale amore? Eri fiera di essere al suo braccio, bella e giovane, mentre lui, se non fosse per i soldi, non lo guarderebbe nessuno, almeno dalla descrizione che tu fai. Io non mi preoccuperei della vendetta. Ti sei già vendicata con questa lettera, dove fai il ritratto di un idolo borioso e villano. Lo è stato subito. Non con te, ma davanti a te, che è anche peggio, quando si faceva negare dall'altra, davanti alla nuova amante che eri tu e anche alle sue segretarie. Uno che ridicolizzava la donna con cui era stato fino a pochi giorni prima. E in quel modo ti doveva piacere poco fin dall'inizio. Invece, in quella scena volgare, tu hai una parte e ne sei pure compiaciuta, ci godi, ti senti la favorita. Ed ecco che poi è venuto il tuo turno. Lui non è cambiato. Schifoso era prima, schifoso adesso. È un uomo debole, forte solo in compagnia, e non ti dirà mai è finita. Come l'altra volta, dà in pasto l'amante uscente ai suoi cortigiani e ripete la stessa identica situazione di cui ora tu sei vittima e non più regina. Quello che tu chiami martirio è solo la normale trafila dell'umiliazione che segue alle storie umilianti. È umiliante che una ragazza si venda a un uomo che disprezza. e che neanche per un istante ha mai idealizzato. Tu hai sempre avuto per lui pochissima attrazione, anzi nessuna, e hai dovuto dissimulare per tanto tempo. Esplode in questo comico grido: quel grassone. Finalmente la verità. Quel grassone era un peso nella tua vita, reso ancora più pesante da tutti i suoi soldi. Io immagino il dispetto cocente, la rabbia impotente quando hai visto i primi segni del disamore del capo nelle insolenze vili che ti riservavano i suoi sottoposti. Ma tu non sei una fanciulla oltraggiata, tu sei l'ex pupa che aveva accettato il gioco, che si vendeva ed è stata comprata. Ma non del tutto, ed è di questo che ti lagni. Come vendicarti? Diventando un'altra, se ci riesci. Cara amica, quando devo vedere lui? Non ci siamo ancora detti niente, ma non c'è dubbio che è amore. Ho il solito problema. Come diventare bella in 10 minuti? Mi sono riempita di lacche, di creme per la pelle, di rossetti. Quello che vorrei, mi capisci, è una specie di bacchetta magica. Sono innamoratissima. Ho 18 anni. Clelia. Quella di Clelia è una richiesta frivola? No, io credo serissima. Perché tutti conosciamo il panico della preparazione prima dell'incontro. Vorremmo, per incanto, quando stiamo per incontrare lui, lei, il, che il naso si accorciasse, i capelli crescessero, l'occhio brillasse. È un desiderio serio che merita la massima attenzione. Osservati bene, Clelia, e quanti siete interessati al fatto. Prima di incontrare la persona che tanto ci rende desiderosi di essere belli, c'è una specie di animazione. E specchiatevi che già ci trasforma i lineamenti. È scientifico. Si chiama faccia da amore. E ne beneficiano tutti. Belli, brutti. Tutti sono migliorati dal fuoco dell'emozione. Quanto all'essere ancora più belli, ci sono tanti trucchi. Che ne so, una corsa in bicicletta, o un bagno fresco, sentire una bella musica, pensare a qualcosa che ci piace molto. Qualcosa che ci faccia belli da dentro e poi fuori. E poi fuori, e alla fine siamo di una bellezza insostenibile. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Amo una ragazza. Stiamo insieme. Boh, insomma, io sto con lei, ma lei mi fa ammattire alla lettera. Un giorno deliziosa, poi capricciosa, e mi chiede delle prove impossibili, tipo fare 400 chilometri per raggiungerla e poi giusto mi guarda. Mi ha fatto cambiare facoltà e poi mi ha detto che sono stato scemo a darle retta. Mi sta mandando al manicomio, che devo fare? Se non cambia, sono deciso ad accettare la borsa di studio che mi offrono e andare all'estero, pur di dimenticarla e non essere più tormentato così. Perché se io poi sto qualche ora senza chiamarla, mi insegue al telefono? Allora ci tiene a me. Tu che dici? Guglielmo P., Venezia. Guglielmo, ti sei consegnato nelle mani di una capricciosa che si diverte a usare il suo potere e si accorge di te solo quando sparisci. Ma perché dimenticarla? Visto che è così sensibile alle tue sparizioni, perché non farle credere invece che ti ha perduto? Io credo che per equilibrare il gioco qui ci vuole una fiaba. Te ne racconto una dove ci siete tutti e due. Lei, questa vanerella bizzosa e viziata, e lui, innamorato morto. L'ha scritta Nikolaj Gogol. Si chiama La notte di Natale, dalla raccolta Veglie a una fattoria presso di Kanka. Prima però si dovrà esorbire qualche parola sull'autore. Gogol, questo insuperabile cantore dell'assurdo, del ridicolo, della meschinità, della corruzione, del terrore. A detta di Vladimir Nabokov, il più grande scrittore in lingua russa, più della grande Trimurtido, Dostoevsky, Tolstoj, Chekhov, e anche più del dio indiscusso che domina su tutti, Alexander Pushkin. E devo dire, a Nabokov io gli credo, non solo per il suo ingegno, ma perché lo conosce di prima mano. Nabokov è russo. E come dice lui nel saggio dedicato a Gogol, è impossibile capire uno scrittore di cui non si sa pronunciare il nome. Infatti io dico Gogol, ma non è mica quella la pronuncia. E a noi, che siamo chiusi fuori dalla lingua russa, non resta che un'ombra, ovvero la traduzione, che è comunque trasformazione. Eppure, come un sole attraverso i bambù, trapelano queste lame di luce. Per me Gogol è Leone Pacini Savoy, che dedicò la vita a interpretarlo, ed è nella sua traduzione che leggerò alcuni brani. Torneremo presto sulle vicende della vita di questo inesplicabile genio, che morì a 43 anni, ormai era diventato grottescamente bigotto, lasciandosi dietro dei capolavori che lo atterrivano. I suoi capolavori lo scandalizzavano. Li credeva opere del demonio, credeva che le anime morte, l'ispettore, fossero frutto di un'ispirazione demoniaca. La sua grandezza umoristica lo disgustava e, morendo, li bruciò per non bruciare all'inferno, per non essere acchiappato dal diavolo. Questo immenso schizofrenico, nemico della sua ispirazione, era fissato con Dio, anche se grandi studiosi di Gogol e grandi artisti a loro volta come Savoy, Nabokov, Angelo Maria Ripellino, Serena Vitale, sono tutti d'accordo nel dire che la fede di Gogol era un abbaglio, perché lui non ha mai creduto in Dio, lui credeva solo nel diavolo. E anche qui, in questa fiaba ariosa e leggiadra, si tratta della lotta fra un uomo e il diavolo, in questa storia d'amore. È la notte di Natale. In un villaggio ucraino, il diavolo vuole vendicarsi del fabbro Vakula, valentissimo pittore, perché gli ha fatto una caricatura sulle mura della chiesa veramente troppo disonorevole. E il diavolo, per fare un dispetto a Vakula, ruba la luna. Perché Vakula vuole andare a trovare Osaka, di cui è pazzamente innamorato, la figlia di Chuck il cosacco. E se ci sarà la luna, Chuck andrà a sbronzarsi a casa del diacono la notte di Natale, mentre al buio lui non uscirà, quindi Osaka non rimarrà sola e Vakula non potrà vederla. E allora il diavolo ruba la luna mandando un tremendo buio. Intanto la madre di Vakula, che è una strega, vola su una scopa e il diavolo in cielo le fa proposte galanti molto pesanti. In quel cielo la notte di Natale è tutto un gran trafficare di caproni volanti, di bestie infernali e di streghe, civette come Saloka, la mamma di Vakula. Per fare il bagaggino con questa signora, mentre scende con lei per la cappa del camino per consumare il loro amore, il diavolo si lascia scappare dal sacco la luna, che torna su, galleggia e si ferma nel cielo. E la notte, che era invisibile, e tutto il nero di colpo risplendono. Ed è la notte in cui i ragazzi vanno sotto le case a cantare i canti di Natale, con dei sacchi vuoti dentro i quali metteranno i doni, per lo più di cibo. Nella capanna di Chuck il cosacco, intanto, Osaka si sta specchiando. Crede di essere sola e non si accorge che sta arrivando il fabbro, anzi che lui assiste a questa scena di raccapricciante vanità che solo la solitudine conosce. Lei davanti allo specchio dice: ma di chi sono queste labbra, di chi è queste orecchie, ma quanto sei bella. Insomma, si fa una gran dichiarazione d'amore allo specchio e non sa che lui la guarda. E sono convinta che la scena memorabile del film Fra Diavolo con Stanlio e Ollio, in cui c'è questa signorina, qui siamo nel Settecento invece, che si specchia e dice e canta questa canzoncina raccapricciante: queste labbra non c'è mal, questi seni non c'è mal, e ci sono Stanlio e Ollio che gli ridono in faccia. Invece in questa scena Vakula non ride, la guarda incantato nonostante tutta questa vanità. Quando lei dice: ehi giovanotti, corretemi pure dietro, tanto un bocconcino così non l'avrete mai, si gira e si accorge che lui ha assistito a tutta la scena. E così lei, che già è beffarda di solito verso questo suo innamorato, lo prende in giro spietatamente, si beffa del suo amore. E in quella, mentre lei si sta beffando del fabbro, arriva questa brigata di giovani, di ragazze che se la portano via per cantare le canzoni, e lei, prima di andare via, lancia l'ultima beffa al fabbro. Gli dice: ehi, mi vuoi sposare? Bene, ti metto solo una condizione. Basta che tu mi porti le scarpette dell'imperatrice. E vola via con questi ragazzi cantando: ma come le scarpette dell'imperatrice? L'imperatrice Caterina II, Caterina la Grande, che vive in questa reggia fastosa a Pietroburgo e che lui a malapena può osare pensarla. Lui alla fine dice: vai a prendere in giro qualcun altro, ma è troppo innamorato. È troppo innamorato e pensa: ma io sono pronto a dare l'anima al diavolo. Per un meccanismo da commedia, intanto, dopo che Vakula è stato congedato da Osaka con questa burla, sua madre, la strega Saloka, mette nei sacchi del carbone tutti i suoi pretendenti uno dopo l'altro, che è l'equivalente dell'armadio nella pochade o della casapanca nel boccaccio. Vakula, respinto da Osaka, passa per casa e senza volerlo prende in spalla proprio il sacco dentro il quale sua madre ha chiuso il diavolo. E mentre va con questo sacco in spalla parla da solo e dice: ma io per questa ragazza potrei anche vendere l'anima al diavolo. Ma sì, dannarmi pur di averla. E non si accorge che ce l'ha nel sacco. E allora, per poter trafficare col demonio, non sapendo che gli è così vicino, va da un cosacco che traffica col demonio. E lo trova seduto, con la sua pancia immensa, con un gran piatto di ravioli davanti, che sta usando la sua scienza occulta per farsi saltare in bocca i ravioli senza muoversi. Bakula gli chiede di metterlo in contatto col demonio e lui gli risponde: «Ha poco da cercare il diavolo, chi il diavolo ce l'ha addosso». Il fabbro non capisce e pensa che parli del demone d'amore che lo possiede. E poi si scandalizza, decide di rinunciare ai servigi dello Zaporogo perché sta facendo un sacrilegio ai suoi occhi di ortodosso ancora più grave del vendere l'anima al diavolo. Davanti al sacrilegio del mago non resiste. Quello mangia di grasso la notte di Natale. E un raviolo, all'ardire, dopo che si è spalmato da solo per virtù magica di crema, di saltargli da solo in bocca. E allora, scandalizzato, Bakula scappa e finalmente si accorge del diavolo. E il diavolo non vede l'ora, è lì pronto, dice: «Senti, ho sentito che volevi vendere l'anima al diavolo. Il diavolo sono io, mi presento, avanti, dammi l'anima e avrai la ragazza». «Va bene», dice Bakula, «facciamo un contratto, firmiamo». E invece acchiappa il diavolo per la coda e, minacciandolo con la crocetta di legno che porta al collo, lo costringe a diventare il suo schiavo e gli ordina di portarlo immediatamente in volo a San Pietroburgo, nella speranza folle di poter accostare l'imperatrice e di poter prendere veramente le sue scarpette. Ed eccolo in volo. La paura iniziale di Bakula, poi l'esaltazione del volo, mirabile in questi scrittori che hanno scritto prima dell'invenzione degli aerei. Poi c'è il memorabile atterraggio San Pietroburgo, nello scintillio della città, le carrozze, il fasto, la velocità di questi cavalli, la vita turbinosa rispetto a lui che non si è mai mosso dal villaggio. Va da una delegazione di cosacchi che devono essere ricevuti dall'imperatrice e ce lo portano ed eccoli a corte. Arriva un uomo fastosamente vestito e lui chiede ai cosacchi: «Ma chi è? Lo zar?» «No, molto di più, è Potëmkin, il grande ammiraglio, l'amante di Caterina». E qui c'è una notazione letteraria deliziosa, delle tante che sono in questo racconto. Mentre i cosacchi fra loro parlano un linguaggio letterario molto alto e ci sono queste gare addirittura a chi usa un linguaggio più fiorito tra cosacchi, invece al cospetto dell'imperatrice si fingono rozzi e parlano la lingua dei contadini perché capiscono che a lei piace il folklore. E in un modo delizioso questa donnetta grassa, vestita d'oro, ma insomma bruttina, alla fine, cui piacciono i bei ragazzi, davanti a questo bellissimo giovane, sentendo che il suo amore dipende dalle pantofole, gliele regala. Lui dà un'altra sberla al diavolo, e si fa riportare subito indietro e intanto al villaggio. Tutti pensano che lui si sia annegato. Hanno ritrovato il suo sacco vuoto sulla riva di questo fiume ghiacciato e hanno pensato che lui sia sparito in un buco nel ghiaccio, che si sia ucciso. E lei allora, la capricciosa Osaka, ha scoperto di amarlo disperatamente. Se lo vede arrivare davanti, vestito da fidanzato, con questa cintura turchina, e allora lui le dice: «Guarda, ti ho portato le scarpette dell'imperatrice». E lei butta via le scarpette, gli salta al collo e dice: «Ma che me ne importa delle scarpette, io voglio soltanto te». E l'ultima visione del racconto sono i nuovi dipinti della chiesa dove Bakula ha dipinto il diavolo in maniera più oltraggiosa che mai. E attraverso Bakula si realizza il grande sogno di Nikolai Gogol, che era di vincere il diavolo che lo possedeva da quando era nato. Ha sentito, Guglielmo? Bakula ha agito perché si è stufato di essere passivo. Dai, vedi se riesci anche a te di acchiappare il diavolo per la coda. La guardiana del faro. Sharmanka sharlatanka. Fra gli scrittori italiani prediletti dalla guardiana del faro, il più citato, il più elogiato, credo anche il più amato, è sicuramente Antonio Pennacchi. Per 30 anni operaio e scrittore che leggeva i suoi libri ai compagni durante i turni di notte. E poi ha vinto il premio Strega con Canale Mussolini ed è diventato famoso in tutto il mondo. E in mezzo a tanti falsi fenomeni, devo dire, nulla rallegra come quando al successo corrisponde il merito. E abbiamo parlato dei suoi capolavori, di Canale Mussolini, di Palude, del fascio comunista, che tra l'altro è uscito di nuovo per Mondadori in una versione che ne esalta la sua essenza di romanzo on the road. Anche oggi parleremo di lui, ma non per un'opera letteraria, per un altro genere di opera, per un progetto che si chiama Pianura Blu e riguarda l'Agro Pontino. Questo progetto mi sembra di un grandissimo interesse e ho invitato a venire qui al Faro Antonio Pennacchi con il suo amico architetto Massimo Rosolini perché ci illustrino di persona questo progetto. Tutti sti piani di scala mi avete fatto fare, fino a ammazzare. C'ho orfiatone. E va bene, visto che avete... Meno male che non ci ha portato il comandante Schettino. Sì, si deve... immagino che vi fidiate solo di voi stessi. Senti Antonio, io ho fatto una piccola introduzione sul vostro progetto Pianura Blu, però da questo momento vorrei che parlassi tu e parlasse Massimo. Noi viviamo in una pianura che è l'Agro Pontino, che sono 700 chilometri quadrati, che erano fino a 70 anni fa tutta palude, mortifera, eccetera, la malaria, disabitato, cioè. Adesso è bonificata, e ci vivono 500.000 di persone, e però camminiamo tutti sulla terra prosciugata. E tutta la rete di canali e di fiumi ce la siamo quasi dimenticata. Quindi questa era una ex palude, attualmente pianura, in cui però si cammina solo in macchina. Nessuno va più in bicicletta, e guai a Dio pensare di andare in barca. Allora noi abbiamo pensato, mi è venuto in mente, dice, vabbè, ma rimettiamo in collegamento tutta la serie dei canali e dei fiumi e costruiamo percorsi alternativi per una mobilità diversa e sostenibile. Cioè invece di andare in giro solo in macchina, noi pigliamo tutta la rete dei canali e dei fiumi e ci costruiamo a fianco sugli argini le piste ciclabili. Ripiantiamo gli alberi dappertutto, le fasce frangivento, e soprattutto rendiamoli navigabili e navighiamo questa rete con battelli ecosostenibili. Questo progetto noi l'abbiamo messo insieme con il POMOS, che significa Polo per la Mobilità Sostenibile dell'Università La Sapienza di Roma. Questo polo è il centro di ricerca della Facoltà di Ingegneria che sta a Cisterna e che studiano i motori elettrici, solare, eccetera. Quindi stanno studiando questi battelli. Noi prevediamo 10-20.000 battelli che solchino l'Agro Pontino. Ma in fin dei conti non è che ci inventiamo niente di nuovo, perché in antico già si faceva questo. Già i romani lo navigavano tutto quanto. C'è un racconto di Orazio nelle satire, nella quarta satira, che racconta quando dovendo andare, dovevano fare un viaggio per andare a Brindisi, lo fanno l'Appia sul carro fino a Borgo, fino a quello che oggi si chiama Borgo Fati, che è Foro Appio, e lì prendono il canale, perché già in antico c'era questo fosso Decennovium, che tu da Foro Appio fino a Terracina salivi in barca di notte, e dall'altra parte c'era il mulo che trainava la barca, e tu arrivavi a Terracina. Poi Orazio si lamenta delle zanzare e soprattutto dei barcaioli e dell'osti imbroglioni. Lo stesso Nerone, che viene così condannato dalla storiografia ufficiale, ma in realtà invece è stato un grandissimo principe, era un compagno Nerone, era di sinistra, che fa la prima grande bonifica e mette in relazione, scava il canale di Rio Martino, mette in relazione tutti i laghi costieri, lago di Fogliano, lago dei Monaci, lago di Caprolace, e il lago di Sabaudia, e lui fa scavare un canale intorno alle spalle del Circeo per poter arrivare a Terracina in barca. E noi pensiamo di rimettere in funzione queste cose, riscoprire anche quindi un rapporto con la natura, l'agroindustria, tutte queste cose qua. Questo progetto noi e questi del POMOS l'abbiamo proposto alla Camera di Commercio. La Camera di Commercio Latina è stata entusiasta perché vede le implicazioni secondo loro economiche, cioè l'agroalimentare, il turismo, eccetera. A me in realtà del turismo non me ne frega niente, a me quello che mi interessava era poter rivivere in maniera diversa questo territorio. Il territorio delle acque noi ce lo siamo dimenticato. Infatti quando hai presentato il progetto Latina avevi detto: noi viviamo in una regione acquatica e ci percepiamo come popolo di terra, come se non ce l'avessimo, ci siamo vergognati delle nostre acque e dei nostri eucalipti. È anche comprensibile che noi in questi anni ce ne siamo, noi chi siamo? Noi eravamo figli di nessuno, eravamo i poveri, se fossimo stati bene a casa nostra noi restavamo a casa nostra, non venivamo in Agro Pontino. Tu parli della grande immigrazione. Delle grandi immigrazioni. E quindi è chiaro, noi siamo venuti qui morti di fame, con le pezze al culo. La nostra emancipazione l'abbiamo costruita qua. L'abbiamo costruita scavando i canali, levando le acque. E quindi ci percepiamo come terra. E soprattutto ci vergogniamo anche del nostro passato, di quando eravamo poveri. Per questo abbiamo buttato giù gli eucalipti, perché sennò ci ricordavamo quando avevamo le pezze al culo. Adesso invece è il momento di ricordarci. Noi siamo figli dei giganti, di gente che la terra promessa se l'è costruita da sola, scavando i canali. E adesso bisogna che noi ricominciamo a valorizzare fino in fondo. Non si può andare sempre in macchina a ammazzarsi di monossido, di carbonio, insomma. No. Ma poi abbiamo calcolato, abbiamo misurato, ci sono 14.000 veicoli che ogni giorno passano sull'Appia, sul ponte di Tor Tre Ponti. Passano su questo ponte e non si rendono conto di quello che hanno sotto. E noi siamo andati a vederlo di fianco, abbiamo filmato. Quello è un ponte romano, ha due arcate e poi un'altra laterale, sono tre arcate, si chiama Triponzium, già nelle antiche carte. È lì che gli antichi romani, i cristiani di Roma, vanno ad accogliere San Paolo quando viene deportato a Roma, e poi anche San Pietro. Quindi l'Appia c'è dal 312 avanti Cristo. Lì ci sono passati gli imperatori, ci sono passate le legioni, i papi, i martiri, i barbari poi. Però noi la trattiamo come se niente fosse. E su questo ponte, lì sotto c'è un ponte stupendo, con dell'età di Claudio, con conci squadrati, è più bello, un'arcata più bella di quella del Colosseo, e non è un monumento che sta buttato là, ma è un ponte che ancora fa il suo mestiere. Lì sopra ci passano i tir. Tu pensa che noi oggi stiamo ricostruendo i ponti in cemento armato costruiti 50 anni fa. A Latina hanno buttato giù tutto il pontile della centrale nucleare in cemento armato, perché fatto 50 anni fa il cemento si stava sfaldando. Questo già più di 2000 anni sta ancora là, fa il suo mestiere, potente e possente, coi tir che gli passano sopra, e noi lo trattiamo come se... E invece no, noi vogliamo che lì ci siano gli scavi archeologici, ci sia la piazzola de sosta, lui continua a fare il suo lavoro con i tir che gli passano sopra, ma che la gente possa parcheggiare, guardarselo, e soprattutto lì lasciare la macchina, montare sul battello lì sul ponte di Tor Tre Ponti, sul fiume Ninfa, e girare per tutto l'Agropontino con questi battelli ecosostenibili. Noi vogliamo un nuovo sviluppo del territorio ecocompatibile, che non sia però il ritorno al passato museale, ancora torniamo al lume dei candela, no, ma che guardi al futuro. E infatti prendiamo il massimo apporto di contenuto tecnologico. Noi pensiamo anche ad una rete di controllo, perché bisogna stare tranquilli, insomma, che anche la ragazza che va in bicicletta possa girare tranquillamente. Quindi prevediamo innanzitutto l'informatizzazione completa, il controllo informatico totale, sia quantità delle acque, eccetera, ma anche su chi si muove, cioè l'uso di droni, di robot, di computer, in modo che si sappia in ogni istante ogni bicicletta in quale punto sta, quindi il controllo in totale sicurezza. Ma dalla forza del passato, da questo ponte che ancora su di sé porta i tir, dalla forza del passato costruire il nostro futuro. Tu hai detto durante la presentazione, non è un sogno, hai detto, è un sogno se non lo volete fare. Certo. Altrimenti, e cosa dice l'architetto Rosolini? Perché poi appunto ci avete studiato in tanti, c'è un'equipe, non è che sia una cosa campata in aria. Prima della parola, volevo tu mi chiami scrittore, lui lo chiami architetto. In realtà noi siamo semplicemente quattro amici che al bar ci mettiamo là. E come facevamo quando eravamo ragazzi, cominciamo a dire, ma che famo questo, famo quello, e noi i progetti nostri nascono così, al bar. Però ci studiate poi. Noi veniamo da Latina, ma mica siamo coglioni, insomma, certo che studiamo pure, però ecco, nascono così. Però ragionatore, noi siamo dilettanti, però con tutta, insomma, inutile che lo sottolinei, la nobiltà della cosa, perché qui se non si ritorna dilettanti in Italia non abbiamo un futuro abbastanza fosco, cioè nel senso che tutto ha preso una forma talmente burocratica, professionalizzata e mercantile, che oggi le idee non nascono, se nascono, nascono solo strumentalmente per arrivare a risultati che qualche volta non c'entrano niente con le idee stesse. Allora, navigare i canali è un'idea, per la verità, non nuovissima come idea. È nuovo il modo di farlo, cioè il fatto di concepire che questa effettivamente è già una rete pronta, esiste, si tratta solo di andarci sopra con qualcosa, eccetera. E quindi abbiamo cominciato a ragionare su questo. E è venuto fuori questo progetto che ha una, tra le molte virtù ce n'ha una, che è quella di cambiare le prospettive storiche sul, sul territorio. Cioè noi, tutti quelli che abitano dalle parti dell'Agro Pontino, Latina, Pontinia, Sabaudi, eccetera, e anche quelli che non ci abitano perché lo hanno sentito dire, eccetera, o quelli che ci vengono anche in vacanza, Sabaudia sapete quanto è gettonata, diciamo. Se, immaginano che tutto sia cominciato da quelle parti nel 32, cioè quando o meglio, tra il 28, il 32, il 35, insomma, in quegli anni della bonifica, cioè, e prima quella fosse una specie di luogo preistorico dell'Italia, cioè un luogo senza storia, eccetera. Ecco, facendo questa camminata per i corsi d'acqua, scoprendo ponti, manufatti, eccetera, noi in qualche modo rimettiamo in luce una storia che invece è lontanina, è lunghissima, insomma. E quindi questa è una virtù del progetto. È un progetto bello perché sono la sovrapposizione di molte cose, cioè c'è questa conoscenza del territorio attraverso questo percorso dell'acqua, c'è ovviamente la visione del paesaggio che diventa un fatto, è bellissimo, perché a parte gli eucaliptus abbattuti, rimangono ancora molte cose in piedi, ci sono fasce frangimento ancora in piedi, poi c'è soltanto tutta la parte pedemontana quando i fiumi sboccano proprio, cioè sono le sorgenti, questi sono ancora luoghi bellissimi di acqua assolutamente pulita, insomma, dove si va già in canoa, no? Capitaneria di Porto, interrompiamo Barbara Alberti dal faro di Finisterre per dare la linea alle informazioni sul traffico in terraferma. Riattiveremo il collegamento tra qualche minuto. La guardiana del faro. Sono qui al faro con lo scrittore Antonio Pennacchi e con l'architetto Massimo Rosolini, che ci stanno raccontando di questo piano che si chiama Pianura Blu per rendere navigabile e ciclabile l'Agro Pontino. Quindi se chiudo gli occhi vedo l'Agro Pontino futuro, è una piccola Olanda. Certo. No, è l'Olanda che è un piccolo Agro Pontino. Vabbè, certo. Perché, sì, no, no, no. Perché l'Olanda lo fanno noi lo facciamo già ai tempi dei Romani e ancora prima dei Romani. Va detto che l'Agro Pontino, pur avendo un equilibrio idrogeologico precario, ma in realtà è più antico di Roma, l'uomo sta lì in agro, la civiltà occidentale non nasce a Roma, ma nasce in Agro Pontino, perché se tu pensi che sotto il Circeo viene ritrovato il cranio del Circeo, di Neanderthal, quello... C'è il tuo libro, Le Iene del Circeo. Certo, quello, cioè il primo simulacro di vita associata e costruzione di miti religiosi eccetera, c'era 51.000 anni fa sotto il Circeo con l'uomo di Neanderthal. Suessa Pomezia è più antica di Roma, insomma Roma a fin dei conti nasce solo nel 753 in Agro Pontino. L'Agro Pontino è più antico, la nazione latina, il nomen latinum, nasce in Agro Pontino, il Latium Vetus, quindi è Roma che impara le sue istituzioni da noi. La forma moderna dello Stato occidentale nasce in Agro Pontino con i latini. Chi l'avrebbe detto? Poi c'ha ragione Bossi, Roma ladrona, ma prima di andare a rubare loro era venuta a rubare in Agro Pontino. Subito il giorno delle elezioni è uscito in prima pagina sul Tempo, sul quotidiano Il Tempo, questo titolo: l'Europa fascio comunista. Ho sobbalzato perché è sicuramente il copyright pennacchiano per eccellenza. Allora mi spieghi? Guarda, io sono... Sì, per il fatto che Hollande sia stato eletto, come riconosciuto anche lui stesso, insomma, anche con i voti determinanti di Le Pen, dei lepenisti. Io però ho chiamato, ero indeciso se sfidarlo a duello, il direttore del Tempo, magari un duello a sassate, perché lui aveva già usato questa espressione qualche tempo fa, in cui aveva definito i Notav, li aveva definiti fascio comunisti. Allora lì mi ero risentito, dico no, guarda, non c'era, io sto con Delio Rossi, no, con che mena giocatori, no con Notav. Però il fatto che il titolo di un mio libro, il neologismo, mi gratifica pure. E però sì, cioè, evidentemente sì, Olanda ha vinto grazie a sta cosa. E qui è stata la profezia. Sì. Ma tutto all'Agro Pontino arriva, c'è poco da fare. L'Europa guarda all'Agro Pontino, insomma, no? Ma quali possibilità reali avete perché questo progetto veramente diventi vero? Guarda, Barbara, noi abbiamo previsto una rete di 300 chilometri. Perché la rete va a compimento, ma magari occorre ancora forme di investimento e tempi medio lunghi. Ma c'è un primo straccio di 100 chilometri che è fattibile al massimo con 2 o 3 anni di lavoro, non di più. Si tratta di trovare le volontà politiche, chi lo vuole fare, il territorio e i finanziamenti per farlo, ma in 2 o 3 anni al massimo noi possiamo rendere una rete navigabile di 100 e passa chilometri. Tieni conto che queste cose in Europa si fanno solo o in Francia, in alcune cose in Belgio e in Olanda. In Italia noi non li abbiamo sistemi di navigazione, abbiamo piccoli tratti sul Brenta, tu vai da un posto, vai all'altro e poi torni indietro, ma una rete con interscambiabile, con nodi di scambio dal mare ai monti, da Aprilia fino a Terracina e ritorno, eccetera, questa non c'è. È la prima rete che possiamo fare tranquillamente, se c'è la volontà politica, si trovano i finanziamenti. Beh, se certo, io il mio progetto gliel'ho dato gratis, ma non possono mica pensare che i canali da scavali scavo io a spese mie, insomma. Possiamo chiedere a Hollande che lui restituisca il favore finanziandocelo lui, insomma, sto progetto. Il favore. Certo. Senti Antonio, visto che tu sei un grandissimo tifoso e so che hai in grandissimo dispitto i laziali che non vuoi neanche sentirli nominare, ma c'è una cosa più vasta sul calcio, questa è la faccenda di Delio Rossi, cosa ne pensi? Guarda, io Delio Rossi non l'ho mai potuto vedere perché era stato allenatore della Lazio. Però sta cosa con gli Aici, ragazzi, mi ha conquistato. Io sto con Delio Rossi, e senza se e senza ma, insomma. Hanno fatto male, è un atto di ipocrisia, i dirigenti della Fiorentina l'hanno esonerato. Ma noi stiamo scherzando davvero, ma non può essere, ci vuole senso del dovere in questo paese, senso rispetto. Tu sei un ragazzo e manchi di rispetto all'allenatore, ma non può essere. Quando i figli sbagliano, i padri gli debbono menare. Guarda, io c'avevo tutti i miei amici miei fanno allenatori di calcio, loro dicevano i primi da menare sarebbero i genitori, perché una volta quando tu andavi a scuola sbagliai, la maestra te menava, mia madre veniva dal professore e gli diceva: oh, mi raccomando professore, se gli servono gli meni. Oggi invece se la maestra gli dice qualche cosa ai figli arrivano i genitori a reclamare, no, i primi da menare sono i genitori, ma non esiste proprio. Tu fai giovane, cresci e rispetta le regole, ma stiamo forza degli orossi, insomma. Grazie Antonio. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.